Do il benvenuto al nostro pubblico, vi ringrazio di partecipare alle nostre iniziative, ringrazio soprattutto i nostri ospiti. Stasera abbiamo con noi Pino Giordano e Pietro Marangoni. Pino Giordano è l'autore di questo libro Ciomma, che viene presentato e che è presente anche nella nostra biblioteca. E rientra appunto in una serie di attività che stiamo facendo ormai da anni, ma soprattutto in questo ultimo autunno molto caldo, stiamo facendo con una intensità inconsueta. Il motivo fondamentale è perché siamo convinti che una biblioteca debba continuamente offrire novità, occasioni di incontro tra il pubblico, gli autori, le autrici, i poeti, le poetesse. Abbiamo sempre un vasto, così una vasta possibilità di offerta e quindi tutte le proposte che ci arrivano, come è stata quella di Pino Giordano, le accogliamo molto volentieri e siamo anzi molto anche lusingati di vedere che questa biblioteca viene così scelta anche come luogo di incontro e di proposta. Sì, perché la biblioteca, e soprattutto questa biblioteca piccola, un po' nascosta, un po' così, anche stritolata in un edificio civile che devo dire, ci ha accolti anche bene in questi anni, ha bisogno di farsi conoscere e soprattutto di dimostrare che qui c'è un bene pubblico ed è un servizio pubblico quello che noi eroghiamo. E soprattutto anche creare delle occasioni di incontro e di confronto con gli autori e le autrici per noi è sempre un'ottima occasione per far così, per creare delle occasioni di lettura, dei nuovi stimoli e delle nuove proposte. Ringrazio quindi sempre anche i nostri ospiti perché sono una fonte principale per noi di stimoli e di occasioni per rinnovare un contatto costante con il nostro pubblico. Quindi grazie ancora, a voi la parola. Buonasera, io sto in piedi perché Sì, vuole usare il mi microfono no, così? Va bene senza microfono? Perché è sempre un po' la domanda iniziale è questa, usiamo il microfono oppure no, ma si sente. Preferisco stare in piedi e parlare a voce. Grazie dottoressa, e grazie a voi che siete qui presenti e grazie a Pino Giordano che lo scorso anno, quando è venuto a presentare Cioma alle SPAS La Stanza, tutto titubante, dice facciamo la prima esperimento qui da te, mi ha chiesto di venire a presentare questo libro questa sera in questa sede molto più autorevole e famosa. Io sono estremamente lieto, ma non vi annoio tanto, se non abbiate paura, perché poi gli facciamo le domande tutti assieme, comincio io e poi. Questo libro di Pino Giordano, a parte il rapporto di amicizia che ci lega da tanti anni, è un libro straordinariamente lirico da una parte e drammatico dall'altra. Lui definisce un romanzo. Per me definirlo un romanzo, caro Pino, è un po' troppo riduttivo. Perché del romanzo ha indubbiamente tutto, un racconto, delle descrizioni scritte molto bene, tra l'altro, perché passaggi come l'attacco del libro. L'aria quella mattina di febbraio era frizzante, si poteva cogliere nel cielo terso, sereno e nei colori dei primi fiori, tra l'erba e l'ebbrezza della primavera ormai vicina, anche se l'ultimo gelo delle notti stellate pungeva ancora il viso e le dita delle mani. Quindi abbiamo degli aspetti indubbiamente da romanzo, quindi aulici, belli, scritti in un italiano perfetto, ma nello stesso tempo abbiamo tutta una parte che del romanzo non è niente, ma è della saggistica, che è la documentazione di quello che viene raccontato in tutte queste pagine. È una lettura di quelle facile perché è introdotta da questi passaggi che agevolano la lettura, ma nello stesso tempo difficile perché fa pensare. Quindi è un romanzo a metà tra il romanzo e il saggio. è un, poi ve lo racconta lui, per chi ha una certa età è un attimo il ritornare indietro, è a quelle problematiche che il primo di tutti è stato Alexandre Dumas quando ha raccontato il 20 anni dopo dei tre, che erano quattro, moschettieri, quando questi qui si sono ritrovati e il mondo che si hanno trovato 20 anni dopo era completamente diverso ed erano cambiati loro stessi. Nel libro di Pino, che è ambientato nel 1978, uno degli anni più drammatici della recente storia italiana, perché erano gli anni in cui ogni settimana le BR uccidevano qualcuno, perché era quasi settimanale. Io ero già che lavoravo, lui faceva il sindacalista, io lavoravo però sì, nella comunicazione, nel giornale, quindi mi ricordo benissimo quegli anni. Erano gli anni però anche di grandi cambiamenti, era l'anno del sequestro Moro, quindi era un anno, il 78, e forse non a caso ha scelto Pino anche questa data, in cui l'Italia è cambiata, è stato l'anno delle elezioni di Pertini, l'anno delle elezioni di Papa Wojtyla, quindi se ricordiamo che fa un certo effetto. Ma di queste cose, credo che ne parliamo durante l'incontro, io voglio partire dal punto di inizio, perché questo libro si chiama Ciomma. Ciomma è un termine che non esiste. Un caro amico si è divertito andare su Wikipedia, su questi mondi, dice: ma questo termine non esiste, chi è Ciomma? Che cos'è Ciomma? Ma Ciomma lo si trova nel libro in un piccolo aneddoto che riguarda una nonna, una mamma e una bimba piccolina che sono ai giardinetti. E sono ai giardinetti e questa bimba piccolissima, che non sa ancora parlare, sono nemmeno, dice: ciomma, ciomma. Con la mamma, che è la mamma, dice: ma quando dice ciomma la mia bambina ha sete, e gli allunga un biberon con dell'acqua, ma la bambina continua a rifiutare: ciomma, ciomma. Allora, la nonna, che ne sa più della madre, perché è stata, dice alla madre: no, guarda che quando la tua bambina, la nostra bambina, dice, ha fame, dobbiamo dargli, e quindi, ma la bambina continua. Allora, cosa è successo? Niente, è successo nell'intervallo di questo libro che questa bimba, una bimba come spesso capita ai bambini, prenda in giro gli adulti che credono di essere loro sempre a insegnare ai più piccoli, a quelli insegnati, mentre qualche volta i bimbi si prendono gioco della mamma, del papà e perfino della nonna. Chiaramente questo può sembrare strano in un racconto come questo. Cosa c'entra? C'entra in questo modo, rispondo anche così. Quando nel 1982 mi misi in testa di scrivere queste cose, ebbi l'occasione di ritirarmi in una casa isolata a Magione sul lago Trasimeno, per 30 giorni mi rinchiusi lì e buttai giù le riflessioni, volevo mettere a fuoco delle riflessioni di quel periodo, dei 10 anni precedenti. E lì chiaramente io desideravo fare un saggio, ma io non sono un saggista, non sono neanche uno scrittore, ho fatto nella mia vita sindacalista e volevo scrivere. Chiaramente però per alleggerire quello che doveva essere il saggio ho intervallato con dei piccoli racconti. Ecco, poi alla fine è venuto fuori che qualcuno mi ha detto: guarda, te lo devo dire, è una cosa anche bella, per me è piacevole. I racconti sono più belli del saggio, e se tu facevi i racconti, cioè come il pollo e le patatine sono più buone del pollo, e se tu facevi, adattavi ancora meglio le patatine, forse avresti fatto ancora una cosa più interessante. Ecco chi è questo, da dove viene fuori questo titolo Ciomma, che è così, che c'entra, ma solo in un passaggio in questo titolo. Voi conoscete Pino Giordano come sindacalista, è stato segretario della CISL Toatesina, lo conoscete come sindacalista. In realtà però Pino Giordano non ha fatto il sindacalista, ma ha fatto il radiologo. Ha fatto il radiologo della società. perché in questo libro, e non solo in questo libro, Pino Giordano, come pochi riesce a vedere quello che accade nella società. Sì, vediamo se velocemente riesco. Io sono partito, poi ho scoperto, almeno secondo alcune teorie, che volevo riflettere su questo decennio, che è stato un decennio ricchissimo, direi, perché mi sembra che qui dentro tutti l'abbiamo vissuto. C'era la contestazione giovanile, c'era la messa in discussione della gerarchia nella scuola e nella famiglia, c'era una generazione nell'università, nelle scuole, c'era un motto che girava in quel momento: ribellarsi è giusto, quindi bisogna ribellarsi a casa, nella scuola, nella famiglia, eccetera, eccetera. E tutti questi giovani, tra cui sicuramente questa sera qui ci possiamo ritrovare in questi pensieri, diedero vita, chi più chi meno, sia nel mondo cattolico, nella sinistra extraparlamentare, a questo movimento che partiva da un contesto. Il contesto in quell'anno c'era stato il Vietnam, l'America Latina, il mito di Che Guevara, con i poveri del mondo, e quindi nasceva un sogno, era il sogno della rivoluzione, il sogno di cambiare questo mondo, che apparteneva a tante, non so, a quella generazione, magari in modo diverso, ma proprio trasversalmente in modo diverso. Quindi c'era questa grande voglia di eliminare le ingiustizie del mondo, creare un mondo migliore, questo era quello che c'era dietro, anche se studiando un po' attentamente alcuni teorici, nei quaderni piacentini si dice, lo dico solo così anche se è una sottigliezza, che il 1968 era il culmine di un'onda, ma l'onda era già cresciuta prima negli anni 60, e che il 68 rappresentava questa punta dove la quale iniziava lentamente, mentre qualcuno pensava che, io stesso dico la verità, pensavo che doveva ancora crescere, mentre ci sono teorie che dicono no, lì eravamo al punto più alto, se doveva scoppiare il grande cambiamento, doveva scoppiare lì, dopo iniziava lentamente la discesa di questa onda lunga, chiaramente che è stata un'onda lunga, perché... Ecco, allora in quel momento che cosa mi è venuto in mente per fare questo? Perché chiaramente poi nelle storie delle persone, perché le persone sono protagoniste, ci sono le passioni, i sentimenti, gli amori, le contraddizioni, quindi non è fatta di teoria, come che è fatta di cose umane, c'è l'umanità dietro a tutte queste cose. Allora ho inventato in quel momento 7 personaggi, 6 uomini e una donna, e volutamente 6 uomini e una donna, perché in quel momento veniva avanti anche l'onda del femminismo, quindi per mettere in piedi questo sbilanciamento ho scelto fra i 7 protagonisti 6 uomini e una donna. In quel momento veniva avanti questa grande richiesta, questa affermazione da parte delle donne di oggi parliamo di quote rosa, parliamo, lì si parlava proprio di questo contrasto forte nel genere uomo-donna. Quindi, e chi sono questi 7 personaggi? Sono 6 uomini e una donna, sono 7 ragazzi, uno studente, un precario, un disoccupato, un universitario, un operaio. Quindi sono i personaggi che oggi rappresentano la diffusione di quello che sta avvenendo nella nostra società. E da dove vengono questi paesi? Avevo scelto che venivano da 7 paesi del mondo. Quindi l'italiano, il tedesco, il francese, il sudamericano, proprio perché già in quel momento c'era un problema di internazionalizzazione, di visione globale del mondo, perché in tutto il mondo questa cosa si espandeva, nelle università, negli Stati Uniti, in Inghilterra, e quindi la rappresentazione di questo movimento di idee doveva essere per forza in quel momento mondiale. Ecco, quello. Allora, velocemente, poi ancora uno spaccato. Cosa fanno questi 7 ragazzi nella loro vita, il precario, quello che va a lavorare, quello che ha un lavoro, quello che... Si riuniscono in una soffitta perché hanno voglia di discutere. Allora c'era voglia di discutere, tanta voglia di discutere. Oggi non si discute perché si comunica col computer. E quindi questa discussione è rappresentata in una soffitta dove si riuniscono la sera, invece di fare altre cose, e si mettono a parlare di grandi temi. E in questa soffitta dove non c'è né una sedia né un tavolo, ma solo una sedia appesa per l'ospite. L'ospite può essere un operaio, il vecchio partigiano, che, perché c'è il rapporto generazionale, c'è sempre uno scontro generazionale padri figli, ci sarà sempre, quindi c'è lo scontro tra il vecchio partigiano che, e il giovane. Ma ragazzi, cosa volete? Volete subito cambiare il mondo? Ma che ne sapete voi? C'è il solito scontro del padre che con il figlio, il padre che è portatore, il figlio che invece è giovane, è pieno di energia e pensa che tutto si può avere. E in quel momento, ecco, tra questo equilibrio fra la ragione e la lotta, c'è la domanda che si fanno questi sette giovani. Perché in quel momento successe una cosa che oggi noi ricordiamo tutti, l'abbiamo ricordato qui tre settimane fa, proprio era i primi di settembre, l'11 settembre c'è il golpe in Cile, c'è il golpe di Pinochet, che è un momento nella storia, secondo me, importantissimo. Lo racconto in due cose, come perché in questi giorni è comparsa una foto sui quotidiani, Fidel Castro che consegna il suo AK-47, questo mitra, a Allende e gli dice: caro, io so che tu non la pensi come me, anzi non condivido, però ti potrebbe servire. Allende non l'usò quella K-47. Allora è il solito dibattito che è sempre ricorrente, anche oggi in forme diverse, ma qual è la strada per cambiare lo stato di cose presenti? È la via pacifica o la via violenta? È possibile pacificamente cambiare questo mondo o non è possibile? Altra cosa che è una cosa che oggi sempre, e ancora oggi, no? È come dire: chi è contro la TAV in Piemonte lo deve fare in maniera pacifica o in modo violento? È una cosa attualissima, attualissima proprio nella concretezza delle cose, non solo nella riflessione teorica. È una cosa che ci avvolge, di cui noi magari, anche se pensiamo di esserne fuori, ma ne siamo coinvolti anche se siamo solo spettatori di questo. Quindi è un momento particolare, è così particolare che segna la storia di questo paese, anche se poi non l'ha, perché da quella lezione nasce la teoria del compromesso storico. Ma il compromesso si deve fare o no nella politica? Vi dico solo una cosa e poi mi fermo per il momento. Ho fatto il sindacalista, un sindacalista fa compromessi, mediazioni, però io rifiutavo questo termine e dicevo sempre: io faccio mediazioni, cerco di fare la mediazione il più alto possibile, cioè qualche volta è base, però il compromesso mi suonava male, mi dava fastidio. Ma in fondo mediazione e compromesso, secondo me, è la stessa cosa. Dipende da come uno lo vede, ma nella pratica è la stessa cosa. Solo che ho rifiutato, perché il compromesso, allora il compromesso storico per molti fu una cosa che andava rigettata, perché era sporcarsi, per coloro che erano nel vecchio Partito Comunista, sporcarsi con la Democrazia Cristiana. Quindi anche se Enrico Berlinguer si era convinto in quel momento che un 51% non si poteva governare, ma si doveva avere un'alleanza sociale molto vasta, allora nasce questa ipotesi. Ecco, e queste sono le cose di oggi, se le troviamo, no? Questa questione di oggi della guerra, che cos'è? È una cosa, certamente, scusatemi, non ha la dignità di quegli anni, è una cosa più volgare, se io mi riferisco, però dal punto di vista della politica è questo il passaggio, non è altro, è questa cosa qui. Che su cui ognuno poi fa i conti, si confronta le sue idee, giustamente, si discute. Quindi siamo lì, siamo ancora lì. E ancora un secondo, ecco, allora qui c'è qualche racconto, come quello di un certo Zufolo, che si pone il problema delle alleanze, perché chi desidera fare politica deve avere sempre nell'idea anche quale alleanze fare, a meno che vado solo contro tutti. Non voglio assolutamente adesso prendere a riferimento Grillo e il suo movimento, vado solo contro tutti, rompo tutto, fino a quando è una tesi anche questa, tutto è opinabile, però il tema di chi fa politica, di chi, dico io, ha la statura e all'altezza della politica, è quello di saper fare le alleanze. Se no, ok, vabbè, io non, siccome gioco sempre a carte scoperte, non ho mai nascosto né la mia identità né nel sindacato né con i miei amici, sono stato iscritto solo ad una organizzazione e ero anche abbastanza testone. Infatti qui c'è un bel raccontino su quanto un ragazzo può essere testone. E una sera del 78 ci trovavamo in via Palermo 99 con Alexander Langer. È una cosa che io personalmente poi ho un rispetto profondo per Alexander, non solo rispetto, qualcosa di più, anche se eravamo magari su posizioni diverse. E nel 78 bisognava fare una lista, come adesso ci sono le elezioni, e si trattava di fare una lista unitaria. E quella sera ci fu la discussione e alla fine si concluse velocemente, anche perché dicevo: caro Alex, se tu hai già preso un taxi color verde, era in quel momento intesa un accordo che era stato fatto con i radicali per la nuova sinistra per l'altro su Tirolo, allora non ci siamo, perché la discussione è già, noi non vogliamo fare intese, vogliamo fare un'intesa sì ma no, se tu hai già fatto questa la discussione è finita. Chiaramente andiamo alle elezioni e l'organizzazione dove io prese il 0,44%, mentre Langer iniziò non solo dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista, soprattutto perché non è che i voti sono importanti, ma è importante quello che tu riesci a dare nella società, riesci a cambiare. Se no, io non sono ancora cambiato, ma sì, ho fatto delle cose anche buone nel sindacato, ma no. Chi riesce invece a modificare gli assetti sociali, quello che ha un riconoscimento poi è riuscito nella politica. Ecco, allora anche su queste cose, le alleanze, che sono una discussione sempre attuale, sempre, come quei ragazzi lì ne discutevano in quella soffitta, così rimane un tema per chi è interessato a discutere, a fare, a essere, e siccome l'essere umano è un essere politico, anche se non lo sa, anche quando va a fare la spesa diventa un soggetto politico, e voi tutti, noi tutti la facciamo, e la facciamo con le nostre idee giustissime, perché ci deve essere sempre questa grande libertà di pensiero e di agire. Chiedo scusa se questa volta sono andato, ma ho già Pino vi ha già raccontato lo svolgimento e la trama di questo romanzo, che per me è sempre difficile definire romanzo, perché è qualcosa di più. Detto questo, vi ha parlato di 7 personaggi. Voi vi immaginate 7 persone fisiche diverse che nella realtà il libro racconta, ma che nella realtà per me è solo una persona, con tutte le sue sfaccettature, con tutte le sue contraddizioni, con tutte le sue problematicità, ma è una persona. E questo è un altro degli aspetti affascinanti del libro, perché anche nelle grandi discussioni, perché questo è un libro che vi consiglio tutti di leggere, e anche alle gentili signore. Perché ve lo consiglio di leggere? Perché è un libro che è dedicato ai giovani, quindi leggendolo anche chi ha i capelli bianchi torna indietro di ormai quanti anni? Di troppi anni. E nei 7 personaggi c'è una sfaccettatura che ognuno di noi si ritrova. Dico bene? Eh sì, cioè qualcuno qualche volta mi ha detto: ma tu di quei 7 personaggi, tu chi sei? Chi sei? Io non sono nessuno, e sono tutti, perché in ognuno ho cercato di mettere un po' delle mie contraddizioni, che non sono solo le mie contraddizioni, sono le contraddizioni che ognuno di noi ha, che so, per esempio, c'è perché poi questi che vogliono cambiare il mondo, no? Che sembra. Poi sono umani, leggeri. Allora c'è lui che vede la sua compagna che esce dal cinema con un altro, e siccome non gliel'aveva detto, va in tilt. e perde e non riesce più a essere, tra virgolette, un soggetto rivoluzionario, diventa un soggetto umanissimo che va in crisi e non riesce più a lavorare, non riesce più a trovare, come si dice, il filo del... Quindi anche perché qualche volta magari noi pensiamo che i grandi personaggi della storia, e ci sono stati, sono un qualcosa di extraterrestri, invece sono umanissimi, sono forse qualche volta ancora più deboli di noi stessi. Questa teoria dei superuomini è una teoria che non c'è, al di là dei grandi personaggi, dei grandi filosofi, dei grandi artisti, e quindi è proprio così. E ho cercato di vedere queste cose partendo da, che so, una delle mie contraddizioni è che io non ho avuto una formazione artistica e quindi sono sempre di fronte all'arte e mi trovo in difficoltà. Allora qui dentro io riconosco invece che l'arte ha un grande valore, la musica ha un grandissimo pregio, anche se io, ripeto, non ho avuto questa formazione, ma ne sono affascinato e devo riconoscere, come dico, avevamo bisogno, questi ragazzi, di tornare a casa a dipingere, ad architettare, a musicare, a scrivere, a ritrovare noi stessi anche in queste cose, perché ognuno di noi ha delle doti, c'è colui che è più facile nella pittura, quell'altro nel disegno, quell'altro nella poesia, tutti secondo me sono, e io ne sono convinto, perché anche quando trovo per strada al bar colui che beve il bicchiere, e anche lui ha qualcosa di nascosto dentro di sé. Sono sicuro che c'è, è una mia magari sensazione, una mia, ma io lo penso, l'ho sempre pensato, perché l'ho verificato, l'ho visto con la gente più semplice, con la gente meno semplice. Dentro ogni persona c'è qualcosa che spesso è nascosta, ma c'è. Ed è questa una cosa che poi non tutti la sanno riconoscere. È come colui che nella sabbia ci sono tanti granelli uguali, c'è una perla, ma siccome non la sa distinguere la lascia lì. Mentre invece nella vita può capitare di incontrare semplicemente persone straordinarie che qualche volta non sappiamo cogliere per la troppa fretta, per l'insufficienza, per cose di questo genere. Prima di lasciare lo spazio poi alle vostre domande, ancora una considerazione. Il passaggio con una confessione mia, il dialogo e la riflessione che mi è piaciuta di più del libro è stata quella tra il vecchio partigiano, anche perché l'ho vissuta in prima persona, perché mio padre è stato comandante partigiano e giovane, e mi sono vissuto io nei confronti con mio padre. Ecco, queste sono alcune pagine veramente per me straordinarie e molto toccanti. È possibile però, dato che molti degli aspetti del libro possono essere riportati nella società attuale, il confronto, la politica, l'idealità che si scontra con l'organizzazione della politica e tutte queste cose, è possibile però poter rivivere i nostri giovani uno scontro come quello che descrivi tu con il vecchio partigiano, cioè con il portatore di un ideale? Oggi i nostri ragazzi sono in grado di avere un match ancora così o no? Ma spesso non dipende appunto dai nostri, spesso dipende dal contesto storico, secondo me. In questo momento, in questa fase storica, ma certo che ci sono anche mai pensare che tutto sia una deriva, un qualunquismo, no, non è così, perché ci sono tanti bravi giovani, però quello che mi sento di dire è che anche questi bravi giovani, che sono tanti, vivono in un contesto in cui non sentono questo contesto, non lo sentono. È un contesto di cambiamento anche, ma individuale, non collettivo. Mi dicevano sempre, ma non è vero che i giovani non si ritrovano? Si ritrovano, certo che si ritrovano ancora. Non è vero che il computer ha creato questo mezzo unico? Ma ci mancherebbe altro, sono tutti esseri e siamo esseri sociali, anche i giovani di oggi, ma manca questo, a mio parere, esclusi alcuni momenti, questo collante, questa, ecco, è difficile che oggi ci siano alcuni giovani come questi, che c'erano ancora, che ero anch'io, che stavamo le sere a discutere. Magari abbiamo perso tempo, magari qui si dice, ma era meglio andare in discoteca. Lo dicono anche questi, alla fine abbiamo perso qualcosa della nostra vita, perché allora c'è il dubbio atroce, ma abbiamo discusso, però poi siccome non siamo riusciti ad incidere, forse era meglio se andavamo a ballare con le nostre ragazze, andavamo in discoteca. Ecco, è questo forse che è il contesto che probabilmente ha sentato un'influenza in questa fase storica. Io vedo questo passaggio, non è detto che nel prossimo futuro, ci mancherebbe altro. Ecco, c'è ancora una cosa che mi preme, che poi lascio, perché sennò, che secondo me è molto attuale. In questo testo, anche se non c'è direttamente, ma c'è indirettamente, c'è una cosa che è attualissima, quella delle regole di democrazia. Perché noi spesso confondiamo la democrazia, che è una, con le regole, che so, non è che siccome gli inglesi votano col maggioritario sono meno democratici di quelli che votano col proporzionale o col porcellum. La democrazia è un'altra cosa, quella è una regola di democrazia. Poi chiaramente c'è una regola, è una regola. Molti confondono la democrazia con le regole. Ok, ma perché è importante questa delle regole? Perché in uno dei dibattiti di questi sette ragazzi, poi era un po' il mio, l'ho detto indirettamente in quella storiella purtroppo, era, ma per le tre domande famose, no? Che sono sempre quelle, che fare, come e con chi? Cioè, come dice, è più importante sapere dove andare, dopo io devo sapere come, col treno, con l'aereo, e con chi. E la stessa cosa, le grandi domande, non ci si ferma che fare per cambiare, ma come, con chi. Allora qui c'è la prima risposta, che è una risposta che da 30 anni, 40 anni mi affligge, poi anch'io ho fatto le mie scelte e quindi uno le scelte le deve fare. Ma qual è il modo? Mi devo organizzare, quindi organizzazione o movimento? Forse sto, è una cosa. Allora, guardiamo queste due cose. Al di là di quello che uno scelte, organizzazione o movimento, ma il problema rimane in tutti e due i corni di questa cosa. Perché se io scelgo l'organizzazione, ma in un'organizzazione chi decide? Guardiamo oggi, Partito Democratico, chi decide? Gli iscritti o gli elettori? Sono gli iscritti che hanno deciso. E chi sono gli iscritti? Quelli che si iscrivono all'ultimo momento o quelli che sono già iscritti da un anno? Io ho sempre davanti a me alcuni congressi del Partito Radicale, perfetto, in cui il giorno del congresso si presentava Pino, comprava il biglietto d'entrata e aveva diritto al voto. Una forma che, cioè, ognuno sceglie le sue forme di organizzazione. Allora, ripeto la domanda, grande, un Partito Democratico, ma chi? Sono gli iscritti o, come qualche anno fa, il gazebo, si presentava sempre Pino Giordano, dava un euro e aveva diritto al voto per scegliere nelle primarie? È una bella domanda. Ma se io vado nel movimento, chi decide nel web, sul web? Anche lì è la stessa cosa, in un modo speculare. Quindi il problema delle regole rimane sempre un problema centrale. E spesso, siccome le regole non sono fatte super partes, ma sono fatte per le partes, cambiano sempre. Ognuno se le scambia per farsi il vestitino a propria misura. Quindi questo tema è attualissimo, centralissimo. Proprio per coloro che sono i soggetti politici e sociali che si muovono oggi. Quindi parliamo di oggi, no? Una volta si era più rigidi, perché o eri organizzazione rigida o eri movimento. Ma oggi, quindi parliamo proprio dei nostri giorni, si riproduce la stessa cosa. E a mio parere, sempre con una certa, così, non per nostalgia, ma decadimento. perché lì, che so, chi era nell'organizzazione doveva dare ogni mese una parte della sua retribuzione, che non era solo la tesserina che ti diceva se fai parte, dovevi, da cosa puoi dare tu? Io posso dare che dobbiamo comprare manifesti, chiaramente oggi ci sono i costi della politica che hanno risolto quel problema, ma quindi c'era quella che si chiamava, poi c'è il movimento dove invece, quindi, ma questo è un problema, scusatemi se l'ho voluto, centrale, che non è solo movimento organizzazione, le regole, se no in tutti e due questo. Quindi, pur raccontando uno staccato di vita del 78, è attualissimo. Però uno che presenta un libro dice sempre il meglio che può dire del libro, anche perché sennò sembra che no. E invece no, io gli faccio anche una critica. Solo una? Gli faccio una critica. È il senso di tramonto che mi ha dato, che mi è emerso nel leggere questa memoria condivisa, è un senso alla fine di fine di pagina chiusa e di un futuro che è, sì, ma è nella nuvola qua su, che è nella nuvola qua, che non è la nuvola del web, ma è una nuvola più eterea, più assente. Cioè, quindi, se allora la conclusione è stata una conclusione non felice, no, di speranza, d'accordo, perché la speranza c'è sempre, oggi, se riportiamo l'attualità, il testo, abbiamo ancora questo inshallah. Sì. Io mi sono salvato però in corner. Domande che non abbiamo, che non abbiamo. Nel gergo calcistico c'è sempre. C'è il modo di salvarsi. No, perché uno dei sette protagonisti, un certo Gianzi, questo, muore purtroppo di un tumore, che è una cosa, scusate, di una grande qualità, perché dalle mie esperienze personali ho capito che tutti abbiamo mangiato le stesse cose, abbiamo respirato le stesse cose e i veleni sono lì, quello che abbiamo dentro. Poi questa è la mia semplice idea, il resto sono tutte storie che si raccontano, però è così, cioè, in tutto il mondo, Sud America, Africa, Asia, abbiamo, respiriamo la stessa aria, mangiamo le stessissime cose, chi gira un po' per il mondo, e quindi io penso che la causa centrale sta lì, di questo grande sviluppo. Vabbè. Però uno di questi alla fine, ma nello stesso tempo l'unica signora Bernadette di questo libro mette alla luce una creatura, e quindi mentre Gianzi se ne sta andando, c'è, arriva in questo futuro. Chiaramente, come dice Pietro, siccome ci sono delle ventate di pessimismo, dice, ma qual è la luce per uscire da la speranza fievole, ma c'è, e io mi salvo un corner, chiaramente, nella creatura che sta per venire al mondo, che rappresenta il futuro, e che è una creatura in un certo senso di questi sette, perché è l'unica signora protagonista, è questa Bernadette, e quindi è l'unica persona che chiaramente poteva generare con il suo compagno. Quindi anche questo che se ne va alla fine in questo modo triste, perché l'ultima frase è proprio dedicata a un corteo, quindi c'è i soliti cortei di quegli anni, c'è un pallone che gira, e non poteva dire diversamente per me, che sono sempre stato malato di pallone, perché da quando ho 4 anni correvo dietro la palla in questo grande cortile del 26 a Bolzano, dove sono nato, e quindi dice, questa palla corse, passa accanto, e uno dei sette che aveva partecipato alla manifestazione, pensando ai suoi amici e pensando a quella storiella di quella bimba che prende in giro i suoi genitori, dice, c'ho mal la vita, la vita continua in questo modo. Quindi, ecco, hai tra una delle critiche giustissime è questa. Io ho cercato di salvarmi il calcio d'angolo. Il calcio d'angolo non è un gol, e quindi si vedrà. Ecco, Pino Giordano, tutto per voi adesso. Bene. Vado? Inizio. Ha toccato questo tema dei confronti generazionali, o forse addirittura dell'assenza di un confronto generazionale tra i grandi, intesi anagraficamente, e i giovani di oggi, no? E io così mi pongo un po' in mezzo, no? Come madre di adolescenti che stanno sbocciando in questo momento. Non, la percezione che ho è che i ragazzi non è che siano anestetizzati o disinteressati a quello che è successo o a quello che potrebbero trasmettere gli adulti o addirittura gli anziani a loro. Secondo me proprio mancano delle occasioni, e spesso non ci sono proprio delle vere e proprie comunicazioni, non mancano. E se si creano, invece, anche i ragazzi ascoltano volentieri. Ho visto delle esperienze anche con alcune associazioni che operano anche nell'ambito storico, dove ci sono delle persone che offrono la propria testimonianza, raccontano la propria esperienza, anche pesante, di un passato molto intenso, e effettivamente c'è un certo interesse. Una cosa che mi ha fatto riflettere è che però è uno scambio univoco. Ecco, cioè gli anziani raccontano la propria esperienza ai giovani, e i giovani lo ascoltano con interesse, punto. Non ho mai visto finora, ecco, uno scambio reciproco, cioè una presa in carico da parte degli anziani, quasi un tutoraggio, cioè non c'è una consegna di un testimone. E questo lo vediamo, è una riflessione che poi faccio anche io come persona che è tra i 40 e i 50, e che non si sente di aver ricevuto un testimone da qualcuno. Cioè, per quanto abbia cercato di mettermi in gioco, di essermi impegnata, di aver cercato di dare un contributo così, personalmente non ho poi ricevuto, o anche altre persone della mia generazione, non è che sono state così coinvolte e gli è stato dato una possibilità. Adesso poi non voglio arrivare fino a parlare di Renzi, visto che l'ha parlato del Partito Democratico, che io personalmente non è che voglio appoggiarlo tutt'altro, però mi sono posta questo problema. E di fatto lui è, per esempio, un risultato di un, che possa piacere o meno, non mi astengo, però può essere anche un sintomo, come ce ne sono anche da altre parti. E questo mi pone delle domande. Di fatto noi siamo ancora qui con persone ancora più grandi di noi, che hanno fatto, esaurito magari per 40 anni un sacco di cose, però poi facciamo fatica ancora ad avere degli spazi ed essere ascoltati. E a cascata vedo anche questi adolescenti che sono sempre meno resi protagonisti e sempre meno in condizione di esprimere delle cose. Ma se proprio viene ancora data la possibilità di ascoltare, ecco, ringraziamo il cielo che ogni tanto ci sono queste occasioni e che questi ragazzini ancora si pongono in questa posizione di ascolto, perché penso che sarebbe bello anche sentirli, no? Non tanto. Questa è una domanda che chiedo a lei, cioè voi, noi abbiamo probabilmente qualche generazione che ci distanzia, no? Però voi vi siete presi degli spazi? Sì, certo. E però probabilmente anche qualcuno si è arretrato e ve li ha lasciati, immagino. Come è stata Io torno a questa questione del contesto. Non è che ce li hanno lasciati, li volevamo prendere, sbagliando, ma li volevamo prendere. Faccio un esempio concretissimo di cosa significavano quegli anni. Allora, il sottoscritto in quegli anni lì non poteva entrare nel Partito Comunista Italiano perché era antistalinista. Ma io dicevo, ma come, io mi consideravo di sinistra, rivoluzionario, no, però non potevo accettare, ho fatto delle cose, ve lo dico perché queste sono cose, anche un piccolo trauma, allora, che poi mi succede dall'altra parte, io ascoltavo Lucio Battisti e avevo tutti i dischi di Lucio Battisti, un bel giorno mi dicono, tu ascolti i dischi di Lucio Battisti? Sì, a me piace Lucio. Non sarai mai un uomo di sinistra, un compagno. Oh, perché? E io, perché? Perché tu nei testi non sai leggere che ci sono dei passaggi della destra. Oddio, dico, oh porca, adesso devo nascondere tutti i miei dischi. Io me li sento tutti, non li ho buttati via, ma li ho nascosti, non ho più detto che ascoltavo i dischi di Lucio Battisti. Ah, lo dico tranquillamente, che fanno parte della... Allora, quali erano i dischi che bisognava ascoltare? Non potevo ascoltare solo Bella Ciao, che a me piace, io canto, io vado in, andavo in piazza con Bella Ciao. Quando, ecco, quando andavo in piazza non cantavo mica Fiori Rosa, Fiori di Pesco, chiaramente, no? È normale, voglio dire. Vabbè, poi a me piaceva scrivere delle poesie e quindi scrivo delle poesie. Porca vacca, mi dicono, guarda che questa poesia dentro è una poesia un po' troppo, qua non parla dell'amore, parla del, no, è perché non sei un compagno. Allora voglio, parto estremi all'altro, da una parte non si poteva perché ero, non ero, non potevo accettare il gulag, era impossibile per me. Io potevo accettare il libretto rosso di Mao, lo confesso, ma non potevo accettare il gulag, non potevo. È una cosa che ledeva proprio, allora non potevo, perché se andavo a fare l'esame mi dicevano Marx, pensiero fondamentale, caduta del saggio di profitto, bravo, Stalin, Stalin non aveva scritto niente, aveva copiato quello che ha scritto, allora no, non puoi, ok? Allora questi giovani, fatto queste, per dire, quei giovani, ce n'erano tanti così, che dovevano prendersi gli spazi e dovevano inventarsi altre cose, dovevano occuparli. E quindi se li sono presi collettivamente. Ma era in quel contesto, non si possono riportare i contesti. Oggi ci sono tanti bravi giovani, si confrontano giustamente però con questo rapporto univoco, ma poi dopo, quando sono insieme, fanno delle belle cose insieme, stanno insieme, ma è difficile che... Ma è questo, è ognuno è bravissimo con il suo mondo, con internet, ormai... si sono presi quello spazio lì. Hanno occupato quello spazio, lo sanno occupare bene, lo sanno utilizzare, fanno anche delle cose, fanno crescere, dei movimenti incredibili. Ecco, ancora una cosa devo dire, anche se confessare. 20 giorni fa qui c'era il figlio di Tarantelli, Pino Giordano, non sono intervenuto perché non era giusto, perché i confronti vanno sempre fatti. Io ho fatto un corso di economia con Ezio Tarantelli a Roma nell'82. E ho, nella mia piccola cosa, contestavo il professor Tarantelli. Perché lo contestavo? Perché io... sindacalista, operaista, lui professore scienziato, anche poi ha dovuto riconoscere che lui... Però da, vi faccio un esempio concreto che è quello di oggi che fate voi. Perché da, diciamo, da signore liceo, ma perché fra l'uovo e la gallina bisogna già scegliere chi deve rinunciare prima alla scala mobile? Se c'è una rincorsa prezzi-salari, io nella mia veste dico fermiamo i prezzi, blocchiamo i prezzi, facciamo il blocco dei prezzi, e i salari non aumentano più. Lui invece scientificamente ci spiegava che non è così che funziona l'economia, questo tipo di economia, che bisognava fermare prima i salari per poi avere una ricaduta sui prezzi. È chiaro che vivevamo un contesto molto forte, perché lì c'era il petrolio, c'era l'inflazione al 22%, e quindi eravamo in un momento particolare. Alla fine quelle tesi entrarono, anche se venivo da un po' prima, perché adesso non voglio entrare in cose particolari, se nel 78 in Italia esiste, inizia la vera moderazione salariale, perché nel 78 dobbiamo ricordarci tutti una cosa importante che riguardava anche i pensionati, perché oggi non ce l'hanno più la scala mobile. Nel 75 in Italia c'è un accordo storico fatto tra l'avvocato Agnelli e Luciano Lama, i quali decidono che la contingenza deve essere uguale per tutti, perché noi dicevamo: se aumenta il prosciutto non è possibile che l'impiegato riceve un punto da 2379 e quell'altro da 1060, ok? Non è giusto, il prosciutto aumenta. Allora, dopo anni e anni, nel 75 Agnelli, va riconosciuto l'avvocato Agnelli, grande illuminato, e Luciano Lama, quindi segretario generale della CGIL, fanno questo accordo. In due anni, 75-77, si arriva alla parificazione del punto. La contingenza era questa cosa, ok. Ma nel 78, subito dopo, questa cosa fa generare una massa salariale incredibile, perché ogni tre mesi scattava questo scatto di contingenza, ognuno nella sua busta paga, in merito all'aumento, aveva l'aumento della sua retribuzione, uguale per tutti. Allora, nel 78, lo stesso quindi Luciano Lama della CGIL con Pier Carniti e Benvenuto arrivano a un accordo che mette in discussione, per la CGIL era una cosa difficile questa, dire che il salario, la retribuzione, non era più una variabile indipendente, ma era una variabile dipendente dall'economia. Cioè, fino all'epoca, fino allora, qual era il concetto? Ma noi che ci importa se noi per vivere abbiamo bisogno di 100.000 lire al mese in più, perché ci costa l'affitto, quindi non ci interessa come va la economia, il nostro retribuzione deve essere indipendente dal... Mentre nel 78 si sancisce un patto con l'assemblea dell'EUR, in cui si dice il salario non è più una variabile indipendente. E lì si segna una svolta, siamo nel 78 a febbraio, dove iniziano poi... Ecco, allora, perché queste cose? Perché quello era il contesto. Allora tu, quei giovani, dovevano occupare lo spazio rispetto anche ai padri o ai grandi che dicevano... se volevi conquistare dovevi entrare, non dovevi stare a guardare, dovevi entrare nel gioco, dovevi prenderteli e possibilmente collettivamente. Adesso è molto difficile questo. Poi io non voglio entrare assolutamente nel rapporto genitori figli, e dico subito perché io non ho avuto figli e non mi sentirei mai in grado di dire una parola a un genitore. Io sono la persona più inadatta e meno adatta. Ho tanti nipoti, ho battezzato tanti, non so, venivano tutti da me a chiedere se facevo il paese, però non ho, quindi ho un rapporto con i giovani, a partire non solo dai miei nipoti, ma non mi sento assolutamente di fare neanche una critica, perché io se vado a casa della mia cara sorella e vedo il rapporto con i suoi figli, non dico niente, a me non piace il comportamento dei miei nipoti, ma non mi permetto mai di dire né a mia sorella, per carità di Dio, ognuno deve stare molto attento, perché io non sono maestro quindi di nulla, però vedo e poi mi permetto di ragionare e vedere come questa... Io avrei una domanda, forse non ho capito bene, ma per lei i giovani di quel periodo del 78 rappresentano sicuramente qualcosa di estremamente importante per tutto quello che è accaduto, mentre mi pare di capire che lei avesse o poca conoscenza dei giovani d'oggi, o quantomeno poca considerazione o meno considerazione. Ecco, come fa a dire questa cosa quando invece magari solo il fatto comportamentale, il cambiamento di tanti anni, insomma, sicuramente adottano una metodologia completamente nuova, oppure si sono resi conto che almeno i giovani italiani, alla luce di quanto sta accadendo da 20 anni, tanto per non dire nulla, sono costretti ad andare all'estero, ad esempio. Allora, non le sembra che questo sia qualcosa di positivo sul fatto che comunque si danno da fare o comunque vengono prese in considerazione, oppure lei li vede così sparpagliati che ne vede solo i fatti negativi? Vorrei saperlo da lei. Qui, innanzitutto chiedo scusa, ma non credo, di permettermi di dare dei giudizi sui giovani di oggi. casomai delle, delle considerazioni, ma non dei giudizi. Quindi, anzi, ho sempre fatto presente che i giovani di oggi hanno, e nei giovani di oggi sono eccellenze, ci sono tutte queste cose. Dove vedo, dal mio punto di vista, la diversità, perché vedo la diversità, no? Dove la vedo? Chiaramente non posso paragonare un giovane di oggi con un giovane di ieri, ci mancherebbe altro. Ho sempre detto che il contesto è diverso, come si muovono è diverso. Che poi ci siano tanti giovani impegnati nelle associazioni, è verissimo. Ci sono tante associazioni non solo cattoliche, ma sociali, che vedono impegnati i giovani. Ci sono manifestazioni di giovani per cambiare alcune cose, ci mancherebbe altro. Dove forse io ho cercato, è il contesto, sempre detto, è tale che a mio parere non dà l'occasione, non dà la possibile occasione ai giovani di oggi, anche a coloro che fanno delle cose eccezionali, prospettare verso il cambiamento. Questo è quello che ho cercato di... Pino, se mi consenti, volevo, non è il ruolo mio, però la considerazione che ha fatto, a integrazione forse della considerazione di Pino sugli spazi, devo dire che, dato che anch'io sono stato un protagonista di quegli anni, quindi faccio parte di questo Marcord, è una questione di domanda e offerta. Allora c'era una grande domanda e una offerta scarsissima di conoscenza. Allora si è fatto uno sforzo di veramente di innovazione. Oggi si parla solo di innovazione, ma l'innovazione vera nel pensiero dei giovani è stato allora, perché questo grazie a una, io parlo per me, ma penso di interpretare senz'altro anche il pensiero di Pino, grazie ad anni di assoluta limitatezza di informazioni, di anni di repressione. Sono stati gli anni in cui le ragazze hanno scoperto che esiste un loro ruolo di genere e un loro ruolo nella società. I ragazzi hanno potuto scoprire e impossessarsi di strumenti che non c'erano sul mercato. Sul mercato non c'erano, siamo dovuti andare a prenderceli in maniera certe volte non ortodossa, oggi possiamo dire forse sbagliata, ma ce li siamo, proprio perché c'era la necessità di prendersi. I giovani di oggi, e vi aggancio al ragionamento del Signore, non hanno più la necessità di un mercato nuovo, di attingere nuovi valori. Questo vale per tutti i ragazzi d'Europa, anche se ci sono le intelligenze intellettuali che vanno a studiare. Questo non vuol dire, mentre allora era un fenomeno di massa di tutti i giovani di allora, oggi è un'elite che può andare fuori a studiare e a fare le sue cose. Oggi chi vive il cambiamento, l'innovazione, sono solo gli immigrati, sono solo i paesi che vengono da fuori. Quelli hanno il desiderio, secondo il mio ragionamento, di riacquistare e di passare quegli anni di innovazione e di crescita, ce l'hanno loro. I nostri, mi consente, io sono padre, nonno e tutto, assolutamente no. Perché? Perché abbiamo sbagliato noi. Noi abbiamo sbagliato, che abbiamo garantito loro tutti gli strumenti. E alla fine digitano molto bravi, con due pollici, bravissimi, mentre io vado con l'indice. C'è, cioè, proprio oggi un bellissimo pezzo sul Corriere sulla differenza generazionale. Questa è tragica. Scusi. No, ma non condivido comunque. Ma mica dobbiamo condividere. Senso che tanti giovani oggi si comportano come una volta, proprio da emigrati, con la valigia di cartone. Non l'avranno più quella, ma sicuramente mi auguro che lo facciano, ma questa è la realtà. Perché quando lei vede i concorsi da decine di migliaia di persone e al sud con tutto quello che succede, e quindi saranno anche costrette ad andarsene, mi pare, ma mi viene ancora da pensare un'altra cosa. Ci aspettiamo, cioè, non sono bravi per il fatto, ad esempio, è una grossa provocazione quella che sto dicendo, che non si arrivi al terrorismo oggi su una situazione economica assurda a livello europeo? No, sbaglia, sta sbagliando completamente. No, perché la domanda, non è che io secondo me sto sostenendo questa cosa. No, è chiarissimo. Dobbiamo aspettarci anche questo. No. Non è che il fatto che non accada o non ci si prepari significa anche una maggior consapevolezza? È possibile, però sempre torniamo a questo che è il solito discorso del contesto di quegli anni dove è nata, e oggi invece che sì, ci sono episodi, ma non ci sono. Però c'è una cosa che possiamo trovare che è la stessa cosa. Qui si dice a un certo punto, siamo nell'82, si sta formando uno schieramento che costituirà l'elemento nuovo del prossimo decennio, fatto di figure marginali, di giovani, che rifiutano questo lavoro assurdo, senza senso e senza scopo, che da una parte è positivo e che dall'altra fa cadere in questa cosa quando qualcuno dice sì, io giro per la strada, ma oggi nessuno ha voglia di fare i lavori più. Ma sono lavori senza scopo, senza senso, e se chi riesce a liberarsi a questo, liberarsi e ribellarsi, è anche giusto, perché chi ha dovuto fare lavori senza scopo e senza senso perché obbligato, purtroppo è stata vittima. Se questo è possibile liberarsi, è una liberazione. Però sono figure precarie che si sottomettono all'organizzazione del lavoro attraverso solo pochi mesi all'anno per procurarsi il necessario per poter viaggiare e dedicare ai fatti propri, che è una cosa di tanti giovani oggi. Allora già lì, mi si scusi e finisco con un altro piccolo, di lavoratori stagionali e di gruppi giovanili che tentano di mettere in piedi una miriade di attività nei settori più vari in cui si possono esprimere liberamente senza sottostare ad un qualsiasi ordine gerarchico. Così c'è chi si trasferisce in campagna per lavorare la terra, e oggi ci sono tanti giovani molto bravi che sono tornati a lavorare la terra e hanno riscoperto nella terra un nuovo rapporto con la vita e con il lavoro. Allora, voglio dire, il mio pensiero, che tra l'altro è qui, l'ho scritto nel 1982, quindi non è che io abbia sfero, che sono una venerdì, ma pensavo di leggere queste cose mentre io, che ero già in un certo senso vecchio, non 82, perché nostalgico, perché ancora vedevo certe cose con gli occhi e la storia degli anni 70, e questo sì che posso fare autocritica, ma nello stesso tempo non mi sarei mai permesso di dire o di pensare che i giovani che io vedevo come iniziavano a, perché c'era stato, vabbè, 77, 80, eravamo là. Ecco. Quindi forse su questo ci si può capire, non c'è un giudizio, ci mancherebbe altro, o i giovani che oggi vanno all'estero perché qui non trovano una possibilità di valorizzarsi. Ci sono anche ancora in questo momento delle persone dal sud che sono tornate in Germania a fare l'operaio alla Volkswagen. Per dire, quindi c'è di nuovo un quindi è chiaro che poi queste cose nella storia, certo, forse quello che in una parola che ha una faccia positiva e l'altra negativa che manca è l'ideologia. Non essendoci più, o essendo molto molto molto caduta, è chiaro che questo non è più un collante, ma ripeto, quella cosa lì, come tutte le cose, è una medaglia a due facce, da una parte poteva e dall'altra invece poteva anche mandare in tilt le persone con gli esempi che le facevo prima, no? Ma l'ideologia, scusi, secondo me l'ideologia è una cosa, è un testimone che si passa, sì, poi si evolve, sì. Questo testimone è stato passato perché, questa è la mia domanda, i 68, io sono nata nel 67, sì. Ci hanno passato qualcosa noi che siamo arrivati 20 anni dopo? Ma i 68 hanno fatto tanti errori, perché i 68 come me, io non mi sento consegnataria o ricevente di qualcosa dal 68, anche se poi sicuramente abbiamo goduto anche come donne, però guardi che in questi ultimi 20 anni mi ha fatto veramente un clamoroso tonfo, e anzi anche quelle cose che ci sono state donate si sono annullate completamente, per non parlare di anche della cronaca di oggi, di quello che è successo. Però io a volte mi domando veramente se c'è stata una consegna, un testimone di boh, adesso corri avanti, vai tu. Sa che veramente nella mia generazione non c'è questa cosa, e poi automaticamente mi guardo in futuro e vedo questi giovani che secondo me è vero che sono anestetizzati, però forse l'unico spazio che gli è stato dato a questi adolescenti ormai è quello virtuale. È un po' drastica come cosa, ma mi sembra che nella realtà non ci siano tanti spazi. È chiaro che poi ci si rifugia in lavori molto effimeri o comunque non concreti, dove non c'è un riscontro realistico, e in spazi di community dove ci si incontra ma non c'è più un dibattito, un confronto. Volevo chiedere appunto a lei se si sente. Ma qui forse tocchiamo un altro, parallelamente, indirettamente, un altro argomento, no? È chiaro che molto dipende da quello che si chiamava in quegli anni lì modello di sviluppo. Se il modello di sviluppo prevalente è quello basato sul consumismo, per essere chiari, o sul mondo virtuale, è chiaro che poi diventa difficile, cioè è anche normale che i giovani rifluiscono nel virtuale, perché quello che questo modello di sviluppo offre è questo. Cioè, allora, quello che dicevo prima, che so, incontro e dice: io sono tornato a lavorare la terra, no, oggi, ieri, e ho fatto una piccola cooperativa per la coltivazione della... Sceglie in tutte le difficoltà, perché lui ha capito, forse bene, ha capito, si è reso conto che cambiare il mondo per tutti non è una cosa semplice, neanche di qualche decennio. Una cosa. Allora dice: io mi ritaglio un mio piccolo mondo, il mio modello, e torno a terra. Poi sono sempre inserito in questo. Anche qui nasce un discorso interessante, no? Perché tra coloro dicono: ma come? È una scelta di riflusso, tu rinunci, torni a... E quindi anche lì c'è un dibattito. Però ecco, il modello di sviluppo non possiamo esimerci da non affrontarlo quando diciamo questo, perché è quello che offre questa realtà. La realtà è questa qua. Cioè, adesso non so, potrei fare una battuta stupida, ma quando in 3 giorni si vendono in questo mondo, tutto quello che c'è, lo sa, 9,8 milioni di iPhone 5 che così toccano, è una realtà, non è, la chiamano il mercato, ma fa parte, vuol dire che c'è una domanda, un'aspettativa per questa cosa qui. Cioè, è chiaro che, ma lì non voglio toccare anche questo discorso con i giovani, perché lì è più delicato quando si dice adesso i genitori hanno, con tutti i sacrifici, la possibilità di dare ai figli per farli studiare più di quanto quelli hanno avuto da loro genitori. È una cosa normale, epocale, ma non voglio toccare questo, perché questo, però c'è anche questo, c'è. È come se c'è, non è che possiamo far finta di niente, perché se no abbiamo, a mio parere, paura di dire le cose, paura di assumerci certe responsabilità, paura di ammettere certe cose. Questo è uno dei limiti. Se uno fa una cretinata, lo dice, ma non deve giustificarla. Tocco ancora una cosa, guardate, stupidissima, torno su questa roba che poi il termine ideologia è sbagliato, si deve dire correttamente ideologismo, perché l'ideologia non è altro che un pensiero, una forma di pensiero, no? Ma è l'ideologismo che rovina, che può diventare assassino nel mondo. Allora, se io compagno ma quando tu vai a urinare, la tua urina va a destra o a sinistra? Beh, dipende dal vento, va. Ah, va a destra? E allora no, non sei puro, non hai la purezza, no? Una cosa cretina per... Dove l'ideologismo ti può portare, no? Allora, non inseguiamo questa cosa, però è così, no? Sono le cose di... Con te è questo. Allora io non voglio tornare a banalizzare con i... c'è questo di fatto. Oggi i figli hanno molto di più. È giusto che sia così. Siamo tutti contenti. Però dopo non ci si può lamentare se ci sono... bisogna avere il coraggio di dire queste cose. Prego. Io volevo solo dire questo. Io ho letto il libro. Mi è piaciuto molto perché ho ritrovato un po' delle mie esperienze personali, questo è chiaro. E io l'ho visto proprio come un bisogno, no, da parte di Pino Giordano, e non so se è questa l'interpretazione, perlomeno quella che faccio io, di una specie di, come dire, di fissare un'epoca, no? Un qualcosa che si è vissuto, che si è, come dire, sperimentato con tutte le difficoltà e con tutti, diciamo, i lati negativi e positivi, e quindi una specie, come dire, di ricerca, diciamo così, del tempo perduto, quando è stato scritto. Però, perché la punta di nostalgia io l'ho trovata, insomma, mi è, come dire, l'ho avuta anche, proprio l'ho sentita. Però, a differenza di quello che appunto viene detto, no, c'è in questi giovani, no, io ho trovato, per esempio, le esperienze che ognuno ha voluto fare, per esempio nel campus sindacale, uno dei compagni, diciamo, no, che vuole portare nell'esperienza concreta del lavoro, quindi della fatica, tutta la spinta, diciamo così, di idealismo sociale che ha dentro, no? Ecco, questo era un qualcosa che effettivamente c'era e si sentiva. Io oggi vorrei capire se si parlasse di queste cose quando c'è un mondo talmente cambiato, no? Io dico, dal mio punto di vista, io ho tre figli, mi sembra che sia una cosa, come devo dire, più legata a, appunto, si diceva, al virtuale, a tutto quello che è, come dire, edonistico quasi, no? Ecco, piuttosto che queste cose concrete, cioè sporcarsi le mani, nel vero senso della parola, avere le proprie le idee, poi andarle a sperimentare lì dove c'è la fatica, dove ci sono, diciamo, tutti i problemi, dove ci sono insomma, tutti i problemi possibili, negativi e positivi. Ecco, quello era una cosa che allora, e io lo ritrovo in Pino Giordano, perché effettivamente lui è stato così, io da come lo conosco io. Poi, a parte questo, poi io vedo che in tutta questa, diciamo, questi compagni che parlano, ognuno con, portando una sfaccettatura, effettivamente, come ha detto il signor Malanguni, no? Una sfaccettatura di quello che è Pino Giordano, no? Della sua formazione, di tutto quello che ha fatto. Ecco, però io poi ho trovato, proprio nella bambina, una cosa che ha, come dire, spiazzato completamente tutti i grandi discorsi, tutti, diciamo così, le affabulazioni, no, eccetera, quando praticamente uno dei giovani, uno dei compagni, quando dice che alla fine praticamente le parole non servono a cambiare il mondo, no? Perché sono astrazioni del pensiero, mentre il mondo si può cambiare soltanto se si resta un po' bambini dentro, no? E quindi avere il gusto del gioco, cioè ogni cosa vederla anche da una prospettiva diversa, che non è, diciamo, quella serietà incisiva portata soltanto a definire le cose e basta, insomma. Ecco, mi pare di aver capito. Forse rispondo così, solo con uno spicchio, perché non posso rispondere sui giovani. Quando si voleva andare nel sindacato negli anni 70, si andava per fare i sindacalisti, per cercare di cambiare. Oggi ci sono dei ragazzi bravissimi che chiedono di venire nel sindacato a fare gli operatori, ma a fare gli operatori, non i sindacalisti. L'ho detto per la mia esperienza. Oggi ci sono ragazzi bravissimi, che disponibili, che chiedono di... Ma qual è la loro aspirazione? mentre l'aspirazione di quella gente era di cambiare il mondo, di fare le lotte operaie, di cambiare nelle fabbriche, l'aspirazione di è lavorare, stare nel sociale, ma fare un lavoro, un'attività, quindi di fare, che so, le pratiche per le pensioni, le pratiche per il tu, le pratiche per la sì, le pratiche per gli altri, tutte cose utilissime a tutte le persone che lavorano, ma la loro, chi ha l'aspirazione di venire al sindacato, giovane oggi, viene con questa aspirazione. Ecco dove io vedo una, ma mica faccio una differenza che eravamo migliori, no? Per carità, in quel contesto chi voleva entrare nel sindacato andava con questa idealità. Oggi chi viene con la stessa, trasportandomi nel tempo a distanza di qua, viene con questa aspirazione, che è quella di fare un servizio sociale, che lui fa. E io non penso che ero più, io in quel momento ero uno dei tanti che avevamo l'aspirazione per fare quelle cose lì. Ecco, forse questo è uno piccolo, in uno spicchio, la differenza sono differenze generazionali, il contesto, la storia, senza fare alcun giudizio. Va bene, vedo che sono sì. Prego. Ma se qualcuno ha piacere lo può prendere, perché io non sono venuto qui per vendere libri, ma per darlo a chi lo vuole leggere.